me, zucca. Ma già a te. Capitato, ma già a voi. 10. No, ecco, c'era binario 10 che stava chiamato. Pagava, come ascolti? Luca, buonasera a tutti. Come ascolti? Buonasera Gianni. 9+30, Radio 5. Perché mi ha arrivato il mobile, ho fatto, ho ripiazzato tutto, volevo vedere se andava bene. E cosa c'entra il mobile con l'apparato? Come cosa c'entra? Avevo dovuto smontare tutto, ricollegare tutto, e volevo vedere se i collegamenti erano giusti. Ah ecco, no, io credevo che il mobile dava un po' più di potenza. No, no, sempre bene la modulazione. Appagato. Non dava potenza, ma da un soffio di bello da vedere. Sono contento. Ma adesso si è a letto, no? Ce l'hai tempo per la postazione? No, sempre a letto. Sempre a letto, c'è il mobile a fianco a letto, c'è lo spazio, come per mettere un comando, e io ho messo l'apparato. Io ho messo tutta la stazione. Ma era a letto. Cappa. Allegria, no? E tua moglie non ti dice nulla? Non si vede nulla, io ho il mobile che si adegua alla camera, chiudo le sportelle e non si vede niente. Basta, allora già va bene, camufla un po' la situazione, dai, perché non sono mai contente le donne. Lo so, so, infatti lo vedo più scuro. Vabbè, e voleva più scuro, mi vabbè, cioè va bene, è bello, è bravo Giulio facendo i mobili, ha fatto veramente bellino. Va bene, ma prima curiosità, ma come mai, boh, non c'è più nessuno la sera? Non so cosa dite, comunque io ci sono sempre, la mia buona volontà è sempre di entrare, se la passione c'è poi, io Luca, me, Claudio, senza un po' meno, ma già sta entrando, c'era anche stasera. Sì, quello sì, vabbè, la sera però male, cioè, ma la notte diciamo era più, da, c'era più movimento, pomponi o, come si dice, vulcano, oddio qualchetto, poi tutti c'erano, adesso non capisco perché si stia abbandonando la situazione. Ma chi lo sa, non è chi lo sa, a volte sono iscritti, a volte sono impegni, tante volte uno impegnato e cose, io puoi dire questo periodo sono molto impegnato. Un tantino lo trovo sempre per entrare, un pelino sempre per entrare a salutare lo trovo sempre. Già quello già è vero, ma ci sei. Avanti Luca. Luca c'è ma non c'è. Ma va. E adesso quando ti arrivo, sempre lo stesso, 9+30. Va bene, va bene. Andare. Ecco, mi ho piazzato le lucette, adesso l'ultimo lavoro che ho fatto, le lucette blu. Nel garage le attaccate, le lucette blu, le belline. Sono dei faretti, i mini faretti, no? E lì sono dove ci sono le manopole, che c'è anche quelle, quel buchetto per mettere i bulloni, lì ho fatto passare il filo, poi l'ho fatto andare dietro. Ah, sono uscito veramente bellino. E ho puntato i faretti sull'apparecchio, i faretti blu. E quelli che usavano per la macchina? E non lo so se si usano per la macchina, sono proprio a modo di faretto. E poi avete i faretti, quelli che si piazzano anche nei muri, per puntare, sono a modo di faretto per le miniature, capito? Regolabili, orientabili. A lei, giustamente. Capo, a lei due brucia. io ho attaccato l'apparecchio con una carta biadesiva, che se vedo mi ha detto di non c'è problema. Ma io invece ho cambiato la famiglia del display, no? Dove ci sono il segnale, le SWR, e ho tolto quella incandescenza, giustamente a filamento, e ci ho messo due LED bianchi normali con due resistenze e dà un altro effetto lo stesso, e così non si surriscalda la parte lì. Ed ho cambiato solo quelle lì e basta. Troppe sono quelle lì blu, quello ho lasciato originale, diciamo, bianco, ed è bello lo stesso. Cambia un po', rimane più soffusa, ma allo stesso tempo luminosa. C'è lo triangolo pallido, ma è un blu pallido, fa forza per lo scooter, dai. Io ho messo quelle, così diciamo con la corrente che giungiavano quelle lampadine lì, sembra così piccole, per esempio le ho provate ad accendere con una batteria da 1,5, da 3 volte non andavano. Ci ho messo il LED con due LED, due resistenze, 2 euro speso, e le ho sistemate così. Guarda, va bene, ma io sono contento. Ma voi dove va bene, ti sento benissimo qua. Secondo me nella 26 gli apparati, uno se non fosse primo, ha una voce, proprio perfetta, limpida, chiara, proprio perlomeno io lo sono visto come un number one degli apparati. Vabbè, a te la parte tua non te l'ho mai chiesto, segnala la parte tua e mio, com'è? Cosa? Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E tu sei il 925, dai. E la Puglia va bene. Probabilmente le abbiamo messo fermo, perché sei un pianato. Qua adesso ho fatto 3 piani, ho fatto 3 piani. Io sopra il grafico ho la 68 e due alimentatori. Avrei voluto, guarda, un alimentatore di quelli piccolini con la pentola che ti danno, vabbè, 12 volt almeno 25-30 ampere. Così avrei eliminato questo, cioè un Airbag da 10 ampere e una Visa 3 ampere. Ne avrei voluto uno, diciamo, almeno con 25-30 ampere, questi qua li avrei eliminati, così avrei avuto più spazio nel ripiano dove sto modulando e posso alimentare qualsiasi cosa come voglio. Circuito che ti dà la corrente stabilizzata, quei modelli lì ce li ho da età di 18 anni, 18 alla fine ce li ho 18 anni questi pezzi. Buonasera dalla città di ferro. Sì, città di ferro, buonasera a te, che vai. Ciao Alessandro, e allora? Ciao Gianni. Buonasera, saluto Ricca che Antonio Sirandia e allora siamo a pausa, abbiamo fatto un po' di carica, adesso ci stiamo rilassando un pochettino, va. Ciao Sirandia, a te il mic. Buonasera anche a te, ben sentito, ti sento molto rilassato. Antonio, ho appena finito di caricare, mi sto fumando la mia sigarettina. Sono qui in postazione, normale. Ci vuole ogni tanto, dai, ci vuole. Vedo che oggi lo stai usando quel pezzo valvolare. No, Antonio. Ogni tanto cerchiamo di farlo riposare un attimino, dai. io che a volte è sbagliato, giustamente, no? Per dire, sì, con un giorno uno c'ha la passione, sai, cerca sempre di tenersene conto, diciamo, queste piccole apparecchiature, perché c'è la passione. Poi per noi, come mi voglio anch'io, ma la verità, anch'io fumo, per dire, per la baracchina può essere non è perfetto, però cazzo fumiamo, un controsenso, sbaglio. Io non fumo più da un anno. Posso dire soltanto a Gianni Bartolui, vabbè, Antonio, cosa vuoi che ti dica? Guarda, io ho provato più volte a cercare di non fumare, ma non so cos'è, ci sono situazioni, oppure Gianni la mia situazione la conosce, dovrebbe ti attacca la sigaretta, pensando che la sigaretta ti possa un attimino, in cui 5-10 minuti sollevare, però non è così, lo sappiamo, ci fa male, diciamo, sia la tasca che la salute, ma arrivato a un certo punto in questo mondo, cosa possiamo fare? Dicono Jeffrey, io ho smesso 2 anni la verità di fumare, ho sofferto una settimana, me la ricordo bene, poi è stato 2 anni senza fumare, ti dico che stavo veramente bene, poi stupidamente ho ripreso anch'io, sai, per pensieri e cantate varie, così ne fumo una oggi, ne fumo una domani, ne ha rifregato di nuovo, adesso sto di nuovo cercando di smettere, ho diminuito abbastanza, ne fumavo una 40-45 al giorno, adesso ne sto fumando una decina, non di più, e piano piano sto diminuendo come ho fatto 2 anni fa, e vedrai ne arrimollo di nuovo, perché quando me la metto in testa una cosa, ci metto un pochettino di tempo, però ci riesco di nuovo, ci vuole, guarda, molta forza di volontà. Esatto, hai detto proprio una sacrosanta parola, è tutta questione di forza di volontà, ma io diciamo che a parte che sono sempre in movimento, se non mi fermo mai, o per una cosa o per l'altra sono sempre in movimento, quindi a me un pacchetto mi fa un giorno e mezzo, mi fa 2 giorni, quindi non è diciamo che sia un gran fumatore accanito, però se riuscissi diciamo a fumare, cioè a non fumare sarebbe ancora meglio, capito? Non è così già. Ma io un chilo così, ma non sto più fumando pacchetti come facevo prima, dove andavo a pescare la gelata, la situazione finivano 2 pacchetti, si iniziava il torto, allucinante, quando facevo la notte pescando mi fumavo, tornavo a casa che mi sentivo tutto strano dentro, fumavo proprio come un turco. Siamo a passare una tira. che sia una cosa, ce l'ho fatta così, per vedere se mi piace tanto, la voce è successo lo strano. Sì, avanti Antonio, riprendi, quando sei stato rimandato di fare la fuori, comunque vabbè, sai di non di palle, ma io ne ho avuto tanti giramenti, però non ho più ripreso, ma per fatto che non ho posso parlare di fuori perché ho sempre questo problema che mi tira la parte in alto, la parte del cuore in alto, il petto mi tira, però lasciami controllare, adesso vabbè sono un po' nervoso anche per quello che mi sta tirando. Ma il Porto Torres non ha mai smesso di fumare? Adesso. Ciao Luca, buonasera. Sì, sì, sì, Antonio, ci ho provato, però diciamo poi coscientemente, sai come delle volte capita, ti trovi così mi sono fatto mezzo convincere. Quindi diciamo tipo i bambini, se no ci prende i ricaschi, diciamo che io fumo abbastanza leggero e non vado sul pesante, ciò che fumo io fumo quelle, sono le Camel, quelle le Silver, che sono abbastanza addirittura di nicotina, hanno 0,1 e di caprame 1 mg, quindi sono proprio quelle che quasi non senti, però mi dirai, è sempre una sicurezza. E così ce ne conosco anch'io, sembra che stia fumando aria calda, è vero. Sì, alla fine guardano come stai fumando, ma confronto alle sigarette non stai fumando, vedi, se ci pensi bene hai la possibilità di smettere, non sei una persona diciamo che il fisico ne soffre più di tanto, perché è molto molto leggera come sigaretta. Lo so, no, ma appunto per questo diciamo che quindi un pacchetto mi fa anche un giorno e mezzo, 2 giorni, quindi non è che sia un grande fumatore accanito, però diciamo adesso pian piano vediamo un attimino, no, perché se riesco, a parte che io circa 3 anni fa avevo smesso, sono rimasto quasi 5-6 mesi e ti posso dire che ero quasi arenato, guarda, mi sentivo che un fascia veramente tocco, poi logicamente come magari, come ha detto Gianni, sai, tiri adesso, tiri dopo, magari ti fai trasportare, tutto lì, no, se si smette meglio. Esatto, io ho una tirata, non è il fatto che ho ripreso, non si può dire che ho ripreso per aver fatto una tirata, ma c'è gente che si fuma anche un pacchetto e poi si smette di nuovo, non è che io sinceramente diciamo che avevo un po' di nervoso, però me l'ha tirata, perché sono stato io che gli ho chiesto. Sei malattissimo già, poi il tuo 1,2 e poi è normale che se uno vuole riprendere, io conosco un Paolo, uno che si a casa mia, cominciare senza fumare, adesso lui si fuma circa, non so, 2 pacchetti di Marlboro Rosso, ma quasi al giorno. Madonna, è una poppa. Proprio il fisico, prima parlava quello grosso, stava bene, ma è male, Mamma mia, tanto già, tu che sei un po' più all'ordine, 2 pacchetti di Marlboro Rosso al giorno e una dinamite. Tu le Marlboro fanno male al cuore, la Marlboro sono micidiaria. No, io fumavo Camel Light, e ho fumato anche molti filter, e poi le Camel Light, ultimamente, ho smesso con le Camel Light, poi diciamo non ho più toccato niente, tranne l'altro giorno che c'era quel cantante, la Teloce, e una citazione mi ha fatto diciamo fare una tirata così me l'ho voluta fare io diciamo. Allora già è un po' ognuno fa quello che vuole, ma qualche volta è smesso. adesso il dottore, se la tocca, ma hai dato problemi, va bene, io non posso, non... No, io non faccio che quando fumo mi fa male il petto. Però, tranne questa parte, adesso ripeto, sono un po' nervoso, come ti ho detto prima, e mi vengono questi dolori strani, perché era nervoso, comunque sia. Però ti posso dire che in questi qui 3 anni che non fumo più, non ho avuto problemi di dolori da nessuna parte, tipo dolore alle gambe, eccetera, eccetera. Non la sigaretta. Però più dolori, sto benissimo. Ho ingrassato con quasi 18 kg, ma non ho tutti nuda. C'è passione, tu hai detto chiaramente, sono già le 6. Questo telefono antico, quello antico, sai che che c'è la corretta, che la poggi sopra. Allora la struttura diciamo in marmo, ma quel marmo verde, veramente guarda una cosa, mi si sono spalancati gli occhi. Non costava neanche tanto, però in quel momento ho detto guarda, lo devo prendere, in quel momento non avevo liquidi abbastanza, diciamo, vado a prendere i liquidi, il ritorno non ce l'ha più, un incazzo, guarda, allucinante. Beh, potevi, sai, dirglielo, l'avrebbero messo da parte, l'avete perdito, avuto 10 euro, se avete dato 10 euro te l'avrebbero bloccato. In quel momento non ci ho pensato, guarda, veramente bello, e non costava neanche tanto, costava 90 euro, capito, 90 euro, però bello veramente, funzionante, ancora completamente funzionante. Sempre a volte è raro, anche ogni tanto ci passo e a volte trovi delle occasioni belle, devi trovare il giorno giusto e il momento giusto. Esatto, vabbè, pazienza comunque, pazienza. Bravo, riprendi 10 anni. Da come lo trovi? L'ottone. Esatto, in ottone, veramente guarda, ti dirò una bugia, era giallo. La classica sella, dopo prendi proprio l'impugnatura, c'erano le due cornette per ascoltare, per rispondere, tipo forchetta per appoggiarlo, la base, i due campanellini sotto la base. Cavolo, era bellissimo. Cazzo, ma se ti sto dicendo, guarda, poi per quello che costava 90 euro, veramente bello, era un po', diciamo, un po' coso, però quello, le parti, penso che siano state in ottone, penso, bastava prendere il prodotto, lucidarlo, guarda, era una meraviglia, veramente, guarda. Com'era in coso, una pianta, una piantava pure la proprio solo stretto. No, proprio la piantana, è presente quei telefoni antichi. C'aveva il manico, cosa ti posso dire? Il manico tipo faro da stiro in sughero, poi le due cornette, la sua piantana, la sua base. I numeri, da fare i numeri, il vecchio telefono con i numeri, col dischetto, tutti bucati sul lato, mi sembra che era sul lato destro, sotto i due campanelli, c'erano due campanellini, poi c'era una base in marmo, di quel marmo verde, e poi salivano l'asta, in effetti fatto tipo una forchetta, dove appoggiare proprio il telefono. Ci sono delle cadere a bordello che bisogna fare, molta roba è una bestia, però ci sono anche le occasioni. Sì, no, c'è Romaccia per carità, però sai, c'è quello lì che per dire le serve due sedie, le serve un divanetto, le serve un piccolo comò, le serve una cosetta del genere, cioè a poco prezzo per dire te la porti via. Però ci sono cose diciamo di antiquariato, cose vecchie veramente interessanti. Guarda, io l'ultimo che ho preso un orologio a pendolo, però di quelli proprio che partono da terra con tutta la sua carcassa, con l'orologio sarà circa 2 metri alto. Con l'orologio, poi c'ha il classico armadio, tu lo apri, c'ha il suo pendolo, quando arriva che in ogni ora ti fa il suo suono, che sembra una campana, ho preso lì stesso. No, guarda, io porto bene, ve la porto da tanto tempo, prima era San Simplicio, poi era la traversa di via Roma a Sassari, poi era lì dove c'era Canale e Arredamenti, ha fatto un sacco di giri, adesso giustamente ha cambiato pote, dove si è messo lì a Predanietta, zona mercato, però ti dico che in questi diversi passaggi che ha fatto in diversi anni, all'epoca c'era molta più mondezza, quello è vero, adesso è molto molto più selezionata come oggettistica, confronta ad altri anni, sì, ci sono cosettine anche che sinceramente non hanno valore, te le danno a 1-2 euro, però adesso sono molto più selezionate e diciamo e cercano per dire dei prodotti, mettono in vendita dei prodotti che vanno in fretta subito, vengono venduti subito. Infatti io c'era una carrozzina, la verità, per bambino, nuova di zecca, nuova, e l'ho portata lì e non me l'hanno presa, dice perché non ha mercato. Dunque in questo momento stanno mettendo diciamo lì in vendita dell'oggettistica che riescono a vendere subito e che gli puoi dare un valore. Adesso è molto più selezionata, se guardi bene. Sì, ma io lo so, ho trovato dei turbini che conosco, prendo la roba che trovano all'avversario, non è che, non ti sto dicendo fesserie, roba che trovano all'avversario, così non è la vera. Io ci credo, già, non ti preoccupare, già l'ho vista questa scena. Poi, meno male, se funziona, perché no? Aspetti un po', se riescono a vendere ti fai due spiccioli. E chi è che non l'avrebbe fatto? Che roba che è buona, perché molta gente ci butta, tipo come ci ho buttato da poco con la microonde che funzionava, ma mia moglie mi diceva che era troppo grande, alla fine si è buttato troppo e si è trasportato la porta un bel. Vedi, se sei riuscito a fare due spicciolini, meglio di niente per buttarlo, quello sì. E vabbè, ma tanto ti danno una fessiglia, sembra quasi una presenza. Sì, ma... Sì, ma ho già fa che il suo valore, diciamo, fosse stato le sue 50 euro, ma che ne avevi ricavato 20 o 30 euro, male che vada te l'avresti messo in gasolio. Infatti non ci ho pensato, avrei dovuto vedere, te l'ho fatto il numero verde, metti attacchi questo numero che veniamo a ritirare. E sono visto che ci hanno preso loro, rapido. Vabbè, non ci ho pensato la verità. Molta roba che avevo portato anch'io, dischi, ma c'è la roba che mi hanno fatto sparire a me, lui passava, non l'ho buttato, e poi ha passato quel tempo lì e poi la buttiamo, che no, no, io adesso per dire non da vendere, per dire, portare non ho portato mai niente, quindi non so come sia diciamo la prassi tra diciamo quel che uno vuole vendere qualcosa, però ci sarà un termine, ci sarà qualcosa. Cosa volevo dirti? Addirittura c'è anche roba di vestiario, abbigliamento, certo, cioè andare a comprare questa roba, sai, però c'è magari il tipo che c'è il giubbotto, che c'è il cappotto, che magari mi piace, che magari costa, non so, 100 euro, invece con 20 euro te lo porti via, lo porti a lavare, ci passi un inverno, cioè queste cosette così, capito? Insomma è abbastanza, adesso dove si trova adesso, per dire, è abbastanza ampio, c'è un capannone allucinante, addirittura io ho visto dei bei divani in pelle, per dire, divani che per dire leggermente un po' rifarli, però insomma, cioè, l'unica cosa diciamo è che capitano questi pezzi antiquariato, ecco, su quelle robe lì. Dietro la piazzetta, quello non me lo ricordo la verità. Io mi ricordo, io ci andavo a San Simplicio, in via Roma, lì da Canalis, e poi altri posti, non me ne ricordo altri, e poi l'ultimo è questo. Ma stai dicendo tu, dietro la piazzetta non l'ho mai visto lì. C'è stata la punti? Sì, i punti sì, è vero, hai ragione, c'era anche i punti. nel 2000-2002 stiamo parlando, è vero, c'era anche alle punte, anche lì è stato, ve l'ho dimenticato. Io prima mi volevo vedere il rombo, no, perché non lo usavo, c'è un pulizia a casa, via, noi siamo già via, che macchina porta molto bello, ho venuto a casa carica, tutte queste cose qua, giocato, le peluche, tutta roba che si imbarazzava e pensava che la mutta si invece andava lì, però non me lo chiedeva subito. Adesso avete presente, non so se vi ricordate, il classico orologio da taschino con la cipolla, il classico orologio da cipolla Citizen, non so se ve lo ricordate. Io mi ricordo quello delle ferrovie, lo abbiamo avuto da Argento, e l'avevo regalato a Talita. Quello della ferrovia, tutto con la scritta ferrovia c'era un disegnato dietro. Sì, vabbè, quello diciamo è un prodotto diciamo già un po' evoluto. Allora io ne avevo preso due, dove era lì prima della curva dove c'è ore grassi, lì dove c'è coso, lì ne avevo preso due di quelli orologi diciamo a cipolla. La corda? Sì, con la corda, sopra c'è la corda, con il suo sportellino, con la sua catenellina, col suo coperchietto, marcati Citizen, ci avranno, sì e no, minimo avranno 60-70 anni quegli orologi lì. Funzionanti? Perfettamente funzionanti, guarda, gli ho dato una bella lucidata. Io ho avuto la passione di orologi, ma adesso mi sono fermato la prima del 2000, mi ho avuto tantissimi antichi, anche di quelli con quadranti che si vede già il giorno profunzionanti, Cosina, della marca delle macchine fotografiche, insomma un po' tutti gli orologi. Poi questa collezione un po' l'ho venduta, un po' diciamo ho tenuto qualcosa, ma poca roba, dai, qualcosa l'ho venduta con le turisti. Ok, dai, ecco per dirti ancora perché la passione diciamo un po' dell'antiquariato diciamo, dai, cose mi sono sempre diciamo sempre un po' attirati, vabbè, a parte la radio, c'ho una radio vecchia a valvole della Radio Marilli, quella valvole con le cordicelle per spostare i canali. Sì, quello sì, anche uno stesso, mi viene una di mia nonna, della si chiama Mary, della Telefunken, qua c'è le valvole nuove, solo che bisogna portarla a sistemare, c'è una piccola stupidaggine, trovare qualche persona brava che le metta le mani addosso. Quello della Mifar, il modello, adesso mi ricordo qual è, e poi questi proiettori che ho, Super 8, ne ho tre. Quelli li ho presi tutti da Portobello, una a 10 euro, una a 20 euro, e le pellicole le vendevano a 1 euro. E anche a me un pochino questi oggetti che devi usare proprio la mano per farli funzionare, ti dà un po' di soddisfazione, dai, di gusto anche a toccare l'oggetto alla fine. E anche a me sono sempre piaciute da piccolo, avevo anche televisori a valvole che mi avevano regalato e poi li avevo buttati. Tanto quella fino si potevano più utilizzare. E anche a me la verità, mi sono sempre piaciute queste cose, no? Quando le vedo, se c'è la possibilità, guarda volentieri, Già sono bella, dai, a chi piace, logicamente a chi piace. Addirittura avevo visto, senz'altro ve la ricordate, la vecchia macchina da cucire, la Singer, quella a pedale, con la struttura tutto in legno, ma in legno massiccio, Allora, anche a casa, proprio trovare. Sì, sì, sì, c'ha il cassetto, c'ha il suo cassetto, no? C'ha il cassetto suo, tu la prendi, la nascondi, la metti sotto, al momento che ti serve la prendi, apri questo sportello, la prendi e la butti fuori e la usi. C'ha due cassetti sul lato sinistro, c'ha i pedali per dire per farla funzionare ed è ancora funzionante. Sei costretto a mangiare dall'altra parte? Infatti sì. Vabbè, dai, non ti preoccupare, porca miseria, fanno ridere, non durano, fanno tutti e tre di fila, proprio si sente che sei talmente arreso e non te ne frega niente, tutti e tre via, almeno ti togli il dolore. Allora, così ce l'ho, quando devi fare cose altro per vincitorio, ma fanculo, tutto assieme bisogna fare e basta. E beh già, fai un consiglio a tua, Pompomio. Non ti hanno scherzato, guarda che stavo vedendo tutti sui computer che ci sono in Croazia dei dentisti bravissimi, con 500 euro ti fanno tutta la bocca, se fa 300 euro fanno 5 euro per l'esattezza. E perché devo pagare? Parlo dove c'è la questura, me lo fanno gratis a me. Dove già lo cadrò me in Croazia? Capo. Viaggio, no, non ci vuole molto, poi vicino a Roma, poi da lì prendi il pullman e ti porti in Croazia. Ecco, 500 euro ti porta la bocca. 4,95 esattamente. Hai detto, non andiamo in Topolino? No, l'ho detto sul computer, ho visto anche le cliniche, ce l'hanno al birbio. No, dimmelo nel sito, dai, dimmelo. Cioè sì, basta mettere apparato mentale fissi. Ti manca che input? 680. Davvero, me l'apparato in ora di in bocca ci mette. Scusate un attimo, mentre chiamo la mia signora, faccio un attimo di bianco. Gianni, ma anche le pubblici li fanno là. No, non lo dici, ma sono roba di bimbi. Quella casa blanca, la vettaglia, vagliela. Che grazie, posso anche allungare, mi lo sai. Basta che uno dimagrisca, si allunga subito. Sono gli estensori per allungare. No, devi fare un coso, non mi sono trovato in televisione, c'era uno che l'hanno operato. Era un pochettino grasso e a posto di averlo normalmente c'era 5 cm di meno. Allora l'hanno aperto 2 secondi e l'hanno fatto fino al volo, gli hanno messo le ali. L'ha fatto vedere il televisione. Gli hanno fatto vedere tutto, in televisione. Mi pare che era un canale 5 o una vetta 4, se non mi ricordo male. Impianti in titanio da 99 euro al mese, costo totale 495 euro, corona in ceramica 490 euro, protesi nubile su impianti 3999 euro, protesi fissa a chiatta, 8 impianti in titanio più 12 corone fisse in ceramica, 10.000 euro. Tu allora, impianti dentali completi in Spagna spiace, mi pagano tutto, mi pagano, ci pagano l'albergo, il viaggio, tutto quanto. Gianni, se è una spesa di 3.000 euro si può fare, non c'è problema. E io che il mio numero ti fa il viaggio e ti spiega il posto di Luca, guarda che puoi fare anche una cosa. Prima, due giorni prima vai a fare il ciucco ciucco, poi vai a calarti la dentiera. È stata l'ultima direttevole, no, scusami. Comunque, fuori ci paga pochissimo, è andata la zia di questa mia collega, è andata in Croazia e ha pagato sulle 500-600 euro, e ci è tornata due volte solo, e ha completato tutto, e è stata molto soddisfatta, non si vuole nulla. Scusa, voglio letto, ripeti per favore. È andata la zia di questa mia collega. E ha pagato con proprio di 500, 600 euro, così. Sono andato due volte perché lei ha avuto una ricaduta di questo dente, praticamente che non ha attecchito e è dovuto tornare. Se no, bastava in una seduta di fare un panico. E non è andata? Croazia. Croazia. Ma faccio una volta qua. In piedi dentali, quando per diverse ragioni si perde il dente naturale è possibile sostituire con una radice in titanio, materiale molto resistente e ben accettato dall'organismo. La radice in titanio si inserisce nell'osso in quale dopo va bene il periodo di guarigione, la gomma come tale lì anche su mamma mia cazzo, operazioni dentali lì su YouTube, minchia. Che ha già visto tutto. Per antologia dentale. Ecco, lì si giostano bene i soldi. Praticamente mi dai 495 euro, sono già finiti, sono come 10.000 euro di qua. Coppiata. Ma ho capito, ripeti già, cazzo, non qua. Mi credi che oggi sono... nervoso, mamma mia. E calma, ho detto che praticamente là guadagnando 495 euro è come se ne guadagnassero 10.000 qua. E quello è poco ma sicuro, perché qua ti prendono non 10.000, ti prendono 8.000, quanto ce ne stanno guadagnando? E perché fanno lavori fatti male? Boh. Però qui ci sono i pasticcioni e lei mi ha detto se ti serve andare ti do proprio il numero di telefono, ci parli, c'è sempre gente che parla l'italiano, ti accettano, ti vengono incontro a parlare eccetera. E poi ti fanno pagare praticamente l'albergo per stare lì fin quando stai soggiornando. Capito. A Giovanite. Ah, vabbè, non ti scadeva di strano. Nuoro. Questo so che qua sta, se non è qualcuno lo trovi, ti fa un prezzo buono. E da Milano da chi? Cioè, da Milano, trovarlo. Milano c'è un centro, che sono croati, e ti fanno lo stesso prezzo che i croati. C'è a Milano un centro. Ci sono croati e indiani, eccetera, eccetera. Cappa. Vabbè. Antologia, impianti dentali detti fissi a Regno di Stato. Fermoni, studio dentistico sacco. Qua per un dente solo uno c'è la taxa, no? Bene, io non lo vogliono. Allora, uno che conosco io, si attacca la della parte di sopra, però fissa, si è andata. Perché? Perché allora dei suoi proprio sani, si è agganciata a quei denti lì, 5.000 euro ha speso. Ma le serestano l'ha speso molto, ma non mi credo che per un momento che abbiamo te l'ha speso 6.000 euro e non l'ha fatto male, cioè sono sotto all'avvocata. Se guarda, i denti sono molto più ricchi da quasi. Che uno c'ha la Ferrari qua, il dentista, sa, no? No, no, ginecologo. Ma ginecologo? Ma si approccio, Lì. Molto. E per tutti i mali. Paga. Ma già c'hanno anche tipo quello che c'è qua. C'è la sciaccia. C'è capito, dove fanno i mandati, quindi sono, siamo stati mandati da lì per avere le, quei soldi, in base non tirano niente, purtroppo è quello. Magari se ci sono scritto un computer, però non c'è, non sono coperti, capito? Io passo in corretti, devi essere cordialmente, non sta bene della bio. Non voglio più chiudere di colpo, mi dispiace. Ciao Luca, ciao Alice, io vi auguro una buona notte, non c'è troppo da quanto potevo fare. Ciao, non so la fine di questa cosa qua, a parte la mia solita età anche io, però anche, vabbè, fammi sapere quando, come si parte, come devo fare, come devo partire, e insomma dopo il punto, ecco. Sono anche un'altra la mia collega, tu che metto in busca, quanto il numero di telefono per chiamare, e poi ti informo, chiami, e ti informo. E ti dicono tutto loro. Allora, sì. C'è il Twitch. Ah, vabbè, ok. Non sapere. Grazie anche a me, comunque sia. Lo fai sapere. Potrò non ti preoccupare, dopo soldi ci sono. A Puglia. Io non mi ho fatto anche un 3.000. Io qualche 3.000 euro, non me ne frega niente. Tutti siamo interessati. Ma che tu? Io ho grillo. Non ce li hai denti già. Già ce li ho. Ma qualcuno mi va. Tu non sono di 500 euro. Mi Luca. Adesso penso di che non chiedo una piola e sono di sempre lei. Ah! C'è un attore con gli altri. Non fare ma brutto. Dopo ecco, abbassa la bocca. È troppo ripetitivo. Abbassa, non si capisce niente. Ha detto che c'ha la piovea, capito? E li sta perdendo. Anche due persone che conosco io. Cacciano questi denti perfetti. Un mio amico, ma belli, bianchi, perfetti, la piovea. Non più piccolo di me, c'ha 35 anni, 34. Sì, lo so, anche mio fratello li sta perdendo. Non so perché. Ne ha già perso due, figurati. Senti, c'è una cosa molto importante, molto, ma io conosco gente, no? Io la metto, sono sincero, conosco gente che ha detti perfetti, però sai questa lettusi che hanno, io non ci porto neanche vicino. Io ancora con il anche dallo stomaco. E a me gli detti che mi sono usciti a perfetti, non erano né guasti né nulla, che se le buliscono non ci cadono. Ma comunque conosco persone che proprio, non lo so, se non si aprono la bocca, ma dipende dalla masticazione, dalla digestione, da tutto, da lettusi. Io c'è una persona che quando mi parla in faccia mi metto sempre la mano davanti facendo finta di toccarmi il naso perché è insopportabile, specie se lo trovi in ascensore. Mi conosci più di uno lui già, lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere, e lo vegliaia. Porco il co. Ma sono solo un accorto, boh. C'è, allora, sono guardo io, c'è uno. Il bello, mamma mia, è stupido con la bocca. Quanto è brutto, uno non se ne rende conto. Penso che uno se ne debba rendere anche conto se ha puzza. Ma ce ne sono che sono vomitevoli, anche da lontano ti prendo. Sono contanti già, non ti pare la bocca, secondo me. Ti pare che non si lavano i denti, non si lavano la bocca. Secondo me, sì, perché non stiamo a curvio, intestino. La digestione, molte volte, anche perché ha pochi denti, mastica male, la digestione avviene male e ti provoca questa cosa. Gente che è? Praticamente mastica male perché ha pochi denti o ha problemi di masticazione, tipo, posso dire, la mandibola sposta appena avanti, eccetera, eccetera. Succede a questa gente molto spesso. Di queste persone ti sto parlando, c'erano che abbiamo una classificazione diciamo non buona, ecco, siamo perfetti. E a volte non vuol dire che c'è gente che sta di là, vedete, pure ha problemi sempre di più arrombati i costi, di avventosi. No, sono quelli che sono del come si chiama, del non so, delle medicinali, appositi per la polizia del iniziano un medicinale, non so, qualcosa per purificare. Sto girando qualche film, si sta facendo come se ci fosse la pellicola del motto di quelle antiche. Ma questa è del Kenwood. Sembra di quelle pellicole antiche, ma te lo dico mia pellicola, quello che c'era al cinema Rex, se forse tu non le conosci. Io già me lo ricordo, andavo da pellicolina da tutto il po' fa io, capito? E quella probabilmente non ne aveva. Pellicolina la figlia? Ti ricordi? Cazzo, ci faccio faccia che cose, altro che dentiera era. Angela Fiore? Sì. Quella a me mi metteva appresso, diceva dove si è, c'è tutta la zappata. Era una silocca, se mi voleva tutti così. Uno o due se ne ha fatto un sasso di cosa vedo. Ui ui. A me cosa mi ha fatto una volta in piazza Castello, era abbracciato con la mia ragazza e venuto e mi ha dato un macello che mi ha fatto un bisticciare. Figurati. Bobo. Insomma all'improvviso, dice anche se c'era la tua ragazza ti bacio lo stesso, che era la persecuzione, scappavo sempre, quando vedeva lì scappavo io, chi non mi piazzia, no, però conoscevano tutti a Sassari, e quindi facevi brutta figura. Una volta le fornitore che ero con Antonio Lucifero, e tocca tanto le scappa che ci violetta, che se non mi bacia e mi brinca in me. E poi lui, aspetta, ma tutta la benzina, violetta, Gianni, che figlio, scappa! E io, tutti i bugietti, tutti girati, a bai bai, lui. Bei tempi, quelli bei tempi. Non c'è la fame che c'è adesso a baracchino. Poi, io, beh, ma, grazie a me di cosa, di ragazzi misti. E vabbè, c'era anche Antonella, se ti ricordi, quella che parlava la nipote Giuseppe Altamura, che la notte dava gli appuntamenti ai CB, tutta la sotto casa mia piena non è altri, gli ho detto cosa cazzo ci fate qua sotto, ci ha chiamato Antonella, ma dove è a casa tua, a casa mia, ma tu sei tutto quanto mappo, di fronte abita, gli ho detto vai solo nella porta. Ma la di Antonella? Non mi ricordo come si faceva a chiamare la verità. Parlava da casa dello zio, di Giuseppe. Giuseppe Altamura. Allora. C'erano dei ragazzi prima. C'erano dei provati. E c'erano state anche provate ragazze che parlavano. Due c'erano. E poi anche a Tissi, c'erano a Tissi a Itri, c'erano state belle ragazze, anche a Rosino. Non mi giretto quel pericolo, prima che ho capito dove stai andando, che ti sei tornato lontano, e ho capito di lì. Paola, giù. E a Giuseppe, oh, meno male, non abbiamo nominato dei cicapigli. Ma non hai da Paola, giù. Io non so come avanti, se è vero quello, già lo so, già sono ricordati Gianni, nei tempi quelli. Ehi, sto scherzando, comunque buonasera a tutta la ruota, Comunque ti ho fregato Samantha io. A me, grazie, proprio quando io non andavo d'accordo, carengata l'avamo, se ti ricordi bene. Con la sorella magari, andavo spesso perché uscivamo anche assieme, con lei, con Lollo. Figurati, ma con Samantha tutti la facciamo un carattere di merda e non sono mai andato d'accordo. Anche adesso se per questo, se la vedo, mi ha la saluto. Anche se sei sposata, quello che c'ha figli, non me la futti tutta. Ah, ma tu amici, facevi anche i regalini. Che facciamo stiamo a per i regali, facciamo la storia della Roberta, del bambino. Ma così è. Cattaglia. Ma poi da quella volta che la mette, vai tu, cosa non ci piangata a trovare? Non ci sono andato perché volevo mascare in carne, io ho trovato qualcuno, lo siamo lì in piazza Roia. Io vado perché altro per l'amicizia, non vado per altri scopi. Poi ci sono andato così, non avete ci è andato da solo, quindi se a lei dava fastidio, non mi sono presentato, basta, tutto si è finito lì. Se poi adesso si è sposata, questo non lo so dire, non l'ho più vista. Ho notato quella cosa, vero, la ragazza di Fabietto, che in piazzetta insieme alla tua sorella che si era sposata, mi sembra che è divorziata adesso quella. Ma Fabietto sta per entrare. Ha fatto un sacco di casino per il baracchino, l'albello, per l'antenna, sistemarla e poi non ha fatto più niente. C'è il ponteggio, non è parlato su e non ha più voluto far nulla, evidentemente non gliene fotte nulla. C'è la moto, ma se ne sta vivendo, nuova nuova lì sotto. Avanti, Giuseppe. Sai una cosa, Antonè, che avevi ragione tu di quella questione del comune. Stamattina mi ha telefonato Antonello, no? Ma i soldi? E i soldi ti pagano i primi tre giorni di settembre. E il resto un altro mese, a novembre. I primi giorni ti pagano, il primo mese di settembre, in pratica. Poi ti dovrebbero pagare tutto ottobre, poi tutto novembre, poi a dicembre non ti danno niente, e l'inizio gennaio, perché a dicembre in pratica il comune, te l'ho detto stamattina, fa i conteggi, e quindi ti pagano a gennaio, i liberi il 15 gennaio i soldi. Guarda, certo, come me l'ha detto, sono rimasto così, a bocca aperta, ma cazzo come? Ma voi mi avete detto che ogni cosa dovevate darmi 250 euro, non è vero allora questa storia? Purtroppo è così, hanno fregato a me, figurati tu, l'ultimo mese che ho ricevuto il soldo mi ha inculato a me. E poi a dicembre sono andato lì e invece mi hanno dato no, il comune ha chiuso i conti, hai capito? Che devono fare i conti e hanno chiuso tutti gli stipendi. Hai detto, Bobo, accontiremo, non vai a fare il dipendente comunale, no, ce l'ha per di buona. Hai capito già. Ho capito, sì. Bobo, questa è il comune che abbiamo qua, certo, in Sardegna, certo, bello serio, capito, però i soldi da noi, e li vogliono farci a pagarci tutto quanto il resto, hai capito? Figli di puttana, cazzo. Sì, passiamo a bella, e chi più ne ha più ne ha. Quella mi è arrivata stamattina, ieri mi è arrivata 144. Ma non l'hanno stesso a pagare. Sì, ma è di 10 anni fa con la Piazza Bondezzami. E la Piazza Bondezzami di questo subito di Emanuele, perché la mia padrona di casa, in pratica, deve essere che è andata lì e gli ha detto no, io non pago niente, ha ragione di quell'inquilino, capito? Capito, vabbè, stavo parlando, mi avete intrattenuto, vi lascio e vi auguro buonanotte, che il sonno mi si sta facendo calare a parte. Va bene, allora buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Avanti Luca. Luca è sparito, essere computer, riprendi Giuseppe. Ciao Gian, buonanotte, buon 144 è un buon coso per domani quando lo fai. Buon trabacco per domani. Ci sentiamo là, oppure ci vediamo, non lo so. Sì, va bene, vediamo un po' come gira la giostra. Ti volevo vedere anche stasera pronto, se ti in radio, niente, no. Ho detto sicuramente Giuseppe non sta bene, infatti ho chiesto Alice, no, già sta bene, a casa. Ero a casa sua, ma stasera ho pranzato alle 2:30, alle 2, dopo me ne sono andato a letto perché cazzo ero distrutto, ero da solo, ma mi sono fatto un culo, cazzo, capito, già, mi sono fatto un culo volendo da tutto da solo e cazzo, e sono crollato, hai capito? Ma sono andato che erano le 6:30 stasera. Alla mezz'ora, figurati, alle 6:30, ti collegamento è stanotte. Uno credo, no, mi tra un po' spengo il televisore, perché domani mattina alle 7 devo essere già in terra, e dunque mi alle 8:30 mi vuole lì, non hai capito, Antonio? Ti fai come ti ho detto io, appena lo diciamo benissimo, ti fai quello che ti deve fare, e poi te ne vai un'ora prima, come fanno tutti. Tanto la cosa è quella, la base è quella. No, ma c'è il muratore domani. Io 8:30, 11:30 me ne sto andando. Certo, 3 ore ho già detto io a Antonello. Antonello, io entro alle 8:30, alle 11:30 me ne sto andando. Punto e basta, no, non ci sono discorsi che tengo. Ma niente, non esiste, non è un pricio. Mi devi finire a mezzogiorno, quanto devi fare? 3 ore o 4, così? Ore. Tanto così, se fai 4 ore non te li pagano anche così, non ti adorare, non è cassato, quindi. Vabbè, cazzo, non è che ho preso, che io faccio le 3 ore e da qui, se mi gira il coglione me ne vado anche alle 11, se mi gira il coglione. Vabbè, intanto mezzogiorno, che coso, di solito i muratori vanno a mangiare, quindi, e poi anche nella mezz'ora prima. Non è che devi fare nulla, tu non devi fare neanche solamente passargli la roba al limite. La roba che c'è da fare, non so se domani dobbiamo fare anche il coso della sabbia, delle pietre, con il cemento, fare l'impasto e non lo gioco, domani vediamo. Ficca, se non ce la metto via la per caso di quanti viene, se lo fai con la palla te la faccio andare la lavazza. Tutto perciò, questo vero, non c'è niente, tocca farla con la palla, è un freccio. E così è un casino, così di gremba. Anche perché il muratore è abituato a fare un tubo, io lo sai. Fa fare tutto al manovale, gli fa l'impasto, portaglielo, dai le pietre, lui le mette, con calma, lui fa perché lo fa con calma. Poi mentre lui si mette due pietre, gli fa di nuovo l'impasto. Se si tratta di quel tipo di muratori la fanno l'accidente e poi ci avrei tutto sotto al culo. Hai capito, no, ma adesso vediamo domani mattina come va a finire, se no devo andare a fare per cercare un altro posto di lavoro, se no, no, non posso andare avanti. E quello sì, prima non c'è niente, non c'è niente. Purtroppo siamo in un'isola, non c'è nulla. Forse in questi cammini qualche cosa si riesce a trovare. E ben distribuiti pure. Dirà, insomma, prima che ti ci si prende un doppio di quanto prendono qua per fare un impianto di 90 metri quadri. Guardami, secondo come va, se c'è un domani uguale, parti con me e scendiamo in costa. Andiamo a fare i muratori, aiutate i muratori, non mi ha fatto caso. Ma lui mi ha detto da 1500 a 1700 vita alloggio. Però la spesa la dobbiamo fare noi, non mi ha fatto un cazzo. La spesa già è difficile, ci sono i supermercati là, l'unica cosa che non ci sono i cosi, i laboratori, non c'è i negozi tipo la GBC, per dire, però tutto il resto c'è. Perché ci sono fatto in Corsica e ce n'è roba, è un po' caro, perché è un po' caro, però basta essere furbi, quando si, la prima settimana che appena ti dà il stipendio, anche più di 15 giorni diciamo, che ti dà l'anticipo, si fa la spesa qui, si scende di sabato e si fa la spesa, a stanza, si riempie il cofano, e poi la domenica sera si riparte e così si deve più trigoli e c'è un mese che non compri nulla e sei tranquillo. Poi per fare i passi, per fare i bigiardini, puoi fare la vivande, basta cucinare, alzate alle 5, si cucina, si mette tutto quanto dentro al coso e poi si va a lavorare. Dopo le 5 poi prendi una roba e te ne vai a casa, ti fai la doccia e la si fa fare qualche passeggiatina di un'ora, un'ora e mezzo e basta. E poi a nanna. Beh, giustamente. Sabato domenica è libero. Si lavora fino al venerdì? No, lì no. E beh, si lavora fino al venerdì sì, lì. A voglia. Vabbè, là. Ok, dai. Tanto non c'è nessun altro in frequenza, no? Vabbè, là. Ci sentiamo domani dopo che esco da lavorare, da casa la tua, là. Esatto. Poi è passato Gilberto, è passato alle 3:30. Mi ha suonato, gli ho detto sì, buonanotte, gli dico che ci sono, gli ho detto. Ma ti ha detto che c'è, poi è uscito dal dito. Il corvo, come ti hai fatto verso le 9? Eventualmente non ci sarà soldini. Beh, intanto si cerca da momento sempre cazzo delle... a rompere i coglioni questo. Cazzo se non ho capito da cazzo vuole, attento. Vabbè, non lo so manco io. Va bene, va bene. Ci sentiamo domani allora. Buonanotte Giuseppe. Ci sentiamo appena finisci, già sono qua, perché sei vicino. Ok, ciao Antone, buonanotte. Ci vediamo domani, ciao ciao. Ciao domani. Tu sì che mi calma il nervo. Ah, caro caro, tu sì che me lo fai sollevare. Ciao Antone. Era quello, con quella cosa. Ciao Antone, saluto, mi hai sentito. Scusate, Giuseppe, non ti ho capito. Ho detto, se era Luca, quello, con quella cerca di cosa di nave. Cosa cosa è? Qualche rumore di nave? No, Luca c'ha il coso, il rumore della ventola, che mi riscuota spesso quando parla, anche io c'ho il rumore della ventola qua. È intanto Antonio Falchetto. Ah, Antonio, buonasera. Buona Marchi, buonasera. Guarda, come mi chiama il nervo. Buonasera, buonasera. Cazzo, ma che tanto gli ha detto qui da Maria Giuseppe. Beh Antonio, ma da c'hai? Come ci stai dicendo male? Male? Questo stai dicendo male, cosa ti porti appresso? Qualche nave, qualche traghetto? Traghetto, male sto scendo buono. Male sto scendo bene Giuseppe, Antonio, ma non c'è scusate tu da qualcuno? Vabbè, il traghetto ce l'avrai tu attaccato. Importante dopo. Forse c'è qualche importante Giuseppe. Ma intanto già in K1 è buon importante che ha dato. Quando sente a lui. Lo senti bu, stanno mettendo portate. La portate c'è. Sì, mi capitano su noi. E c'è la portata. Va bene, signori. E beh, Antonè, tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto. E ne sei venuto, ne così. Più che altro, mezzo ultimo, là, no? Tutto un tiro. Ah, ma l'importante è andare avanti. Ah, vi ho sentito che ti ha arrivato e tu ci hai da salutare, dai. Hai fatto bene, hai fatto bene. Per carità, va. Ormai il baracchino sta andando come tu ti ricordi, e tu che non entrava più nessuno, lo stesso periodo qua sta nuovamente facendo così, hai capito? Giuseppe, dai, soldi e basi, a tutti i dì, capite, dopo chi più chi meno hanno altre cose da pensare che il baracchino, dai. Non è che puoi fare tutto un erba un fascio. È così, da sempre stato così il baracchino. C'è un momento buio e un momento di pace, e che ci vuoi fare? E vabbè, vabbè. A me non mi può interessare più del meno del baracchino, capito? A me faccia, fare trovare una cosa, sistemarmi bene, anche un bel posto fisso, e poi il baracchino me ne frego le scatole. Quando voglio entrare entro, sono tra gli amici, entro, più del meno, ma non me ne frega più un cazzo, ormai qua mi sta proprio deludendo il baracchino, e adesso se mi gira le scatole chiudo patenti e riprenderò quando ne ho voglia. Boh, da me io adesso... Cosa hai fatto, Bobo? Sono troppo... Io niente. Diciamo, troppo... Per te è molto preoccupato di sempre. Di fili e questioni di alti e bassi. E vabbè, e torna al discorso mio, non è che le cose del macchino dovrebbero essere un passatempo, non un obbligo, perché non si obbliga nessuno a trovare, capito? È un passatempo. Ma dove decide, giustamente decide il giusto di non entrare perché ha altre cose da fare, pazienza, tutto lì. Non è che uno se debba... Ne debba fare una malattia, capito? Tutto qua. Detto questo, chiudiamo lo stand by a tutti i dito. Pensa a lavorare a voi. A baracchino c'è sempre il tempo per poterlo dedicare. E vabbè, non è il fatto che baracchino qua era un coso di, come si può dire, una specie di trazione. Infatti due chiacchiere, ma si tratti, capito, però a un punto del codo ci sta anche male, perché quando non senti la frequenza che non sta andando più avanti, ti dispiace un po', capito, perché è conosciuto tanti amici, tutto quanto, poi che questa amicizia si rocchi una parte che dall'altra, si rompe la catena e dispiace un po', hai capito? Basta mettere due punti di saldatura, poi si risolve tutto. Ok, vai con voi. Facciamo l'amore tutti, se non facciamo la guerra diceva quello. Poi scappoci a baratti da un po' di donne e vedrai che come si solleva tutta la 27. E tutti mi nascono, felici e contenti. Ma vediamo come stanno, ci sto. Il discorso è, come hai detto tu, fare l'amore e non fate la guerra, tanto non ha senso di nulla. Non ha senso di niente. Ma comunque, così è, ovvio, ma che dai. Domani lavori tu. Allora, anche domani, mi sa che anche sabato, se non riesco a finire oggi, mi domano sabato. Vabbè, l'importante ci sia, poi, che appena mezzo ci arrivi a portare qualcosa da pagnotta a casa, poi, per appresso. Anche si può implicare, capito? L'importante è venire a casa del lavoro, poi per il resto con il lavoro si può organizzare tutto quanto, capito? Si può organizzare feste, si può organizzare cene, si può organizzare spuntini e si può organizzare tante cose con il lavoro, capito? Ehi, ma anche quello è bello. L'importante è organizzare la pagnotta a casa, poi tutto il resto già viene da sé. Positivo e caparoccia. Vai Antonè, lasciate due passaggi, poi chiudere. Domani a fare presto. Già, non ci andrà a lavorare domani mattina. Andiamo a fare i carciofi domani. Andiamo qualche tenuta. Dobbiamo un po' di carciofi, pomodori, facciamo un po' di spesa. Sì. Sai cosa fare, se non piove la tua carciofi ci esce a nulla. Io ce l'ho credo già. Se non piove sarà un bel casino, sarà. L'unico problema è se piove forte e fa anche danno, perché se succede come l'altro giorno, questi temporali tipo estivi ci danno prova a noi. Eh sì. Vai Giuse. E altro che, ma dice che la domenica dovrebbe cambiare, a me c'è un brutto tempo, pioggia e durerà per un bel po'. Se non aspetta la domenica, sai che cambierà domani stesso. Domani stesso. Ha messo un mentale, 20 furti e beh, in Sardegna le previsioni hanno detto che c'è molto vento mestrale, pioggia e parecchia pure. E vabbè, un misto ha messo. E poi vedremo il risultato domani. Signore Billy, mi ha colpito, vi saluto. Date l'amore e ci si deve ascoltare migliore. Ho detto come metti da parte mia. No, ok, ci sentiamo con Coretti allora. Buon tutto, cammi bene e buonanotte. Dottore, buonanotte anche a te. Ciao tu, buonanotte. E salutami buona Marti, capito? D'accordo? L'ha fatto, d'accordo? Adesso fate l'amore, fate l'amore o fate la guerra. Buonanotte anche per me, da quelli che là. Ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Giuseppe, buonanotte. Ci sentiamo domani, ci vediamo domani intanto. Alla prossima.